24 Mattino. Andare in pensione quando sei ancora, diciamo, in forma, risparmi soldi anche nella sanità, perché hai meno stress, meno usura fisica e tutto, è di tutto via andare. Quindi bisogna andare in pensione prima. Ragazzi, va benissimo, facciamo tutti pensione 55 anni, ma con un sistema pensionistico completamente a capitalizzazione. Tu ti metti via e poi decidi di andare in pensione. E voilà, riparte dunque il dibattito sulle pensioni, uno dei grandi temi che dovrà affrontare questo governo apparentemente rafforzato dal voto in Emilia Romagna. È la seconda parte di 24 Mattino, le 7:19 minuti e 32 secondi, la parte dedicata alla rassegna stampa. Abbiamo parlato di pensioni prima, dunque se volete c'è il podcast dello spazio tra le 6:30 e le 7. Non abbiamo parlato solamente di quello, ovvio, però abbiamo dedicato un approfondimento alle pensioni ed è quello in realtà che vorremmo fare un po' più spesso, dopo quest'ubriacatura di discussioni e riflessioni politiche è tempo di tornare ai dossier, a cosa c'è sul piatto. Pensioni, Ilva, l'Italia, riforma dell'IRPEF, Libia, immigrazione. Intanto però gran parte dei quotidiani si dedica ancora alle questioni politiche, al post elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, almeno nelle aperture. Fa eccezione giustamente il Sole 24 Ore, che apre con il coronavirus, virus cinese, mercati sotto pressione, e si dedica anche alle pensioni. Quota 100 ridimensionata, resta da sciogliere il nodo giustizia, e qua sono appunto i dossier del governo. Spalanchiamo il PD è il titolo di apertura della Repubblica con un'intervista a Romano Prodi, è un virgolettato. Conte, l'offerta al PD spacca il Movimento 5 Stelle, Conte che parla di un fronte antidestra è l'apertura del Messaggero. Riecco il bipolarismo è l'apertura di Avvenire. La già citata Verità. Conte si prepara al terzo governo e strizza l'occhio a Forza Italia. Ecco perché Salvini ha perso, titola il Fatto Quotidiano. Il PD a Conte ora cambiamo agenda, è il titolo della Stampa, che addirittura ha quattro interviste: Renzi, Meloni, Giorgetti e Cancelleri, che sarà nostro ospite, tra l'altro, l'esponente del Movimento 5 Stelle, alle 8:30. Con Maria Latella, sarà con me con Maria Latella. Effetto Emilia, duello PD 5 Stelle, il titolo del quotidiano nazionale. Cambia il governo e quello del Giornale. Piazza Grande, quello del Manifesto, sulle sardine ovviamente. Il PD chiede la fase 2, il titolo del Corriere della Sera. 5 Stelle è morto ma resta al governo, il titolo di Libero. E infine un'occhiata anche alla Gazzetta dello Sport, che ha un titolo in testa dedicato alla scossa Eriksen, la corsa a scudetto, entusiasmo a Milano per il suo arrivo, insomma si parla dell'Inter, ma centropagina la grande foto di una maglia di Kobe Bryant e un'intervista a Gallinari, il mio Kobe, il racconto esclusivo di un'amicizia, l'unico vero idolo che brividi quando ha voluto conoscermi. Iniziamo però, come sempre, da qualche altra cronaca un po' diversa da quelle che trovate sulle prime pagine dei giornali, dagli argomenti che vengono considerati quelli centrali di oggi, ossia appunto quello che succederà al governo, quello che succederà alla maggioranza. Le prime due cronache hanno a che fare, ne avete sentito parlare anche in GR24 con il tema del razzismo e dell'antisemitismo. Siamo sulla Stampa a pagina 20 e sul Corriere della Sera a pagina 23 per due storie La prima arriva da Torino, da Torino. Adesso me ne vado a casa a rivedere Schindler's List, è un bellissimo film, molti ignoranti dovrebbero guardarlo e trarne preziosi insegnamenti. Inizia così il pezzo di Irene Famà e Massimiliano Peggio, un pezzo che inizia con un virgolettato, il racconto di una donna, sciarpa rossa, un filo di rossetto sulle labbra. Ieri sera, uscendo dalla questura di Torino, la signora Maria tratteneva a stento le lacrime. Non immaginavo di subire questa umiliazione nel giorno della memoria. In mattinata, uscendo di casa, si è trovata davanti una scritta che le ha trafitto il cuore, le sue radici, i suoi affetti. Crepa, sporca ebrea, scritto in stampatello con un pennarello scuro su una parete dell'androne ai piedi di un vecchio palazzo addossato alla precollina torinese. Ha fatto denuncia alla Digos non tanto per avere giustizia quanto per sconfiggere l'ignoranza. Quindi il dolore di questa signora che si trova questa scritta a pennarello nell'androne del suo palazzo, per una memoria, questa, quella di questa donna, legata anche alla storia della mamma, staffetta partigiana, è morta a 92 anni, fino all'ultimo è stata lucidissima. A 87 ha scritto le sue memorie, sono straordinarie, dovrebbero essere lette da tutti, soprattutto dai giovani che non conoscono la storia e le sofferenze della Seconda Guerra Mondiale. Mia madre, originaria di un'antica famiglia ebrea, ha fatto la resistenza e portava messaggi da Roma a Torino. Vedremo che cosa emergerà dalle indagini dopo la denuncia della donna e vedremo cosa emergerà dalle indagini su un episodio di razzismo avvenuto nel Bresciano. Siamo a pagina 23 appunto del Corriere della Sera. La vittima è Madia Ktibari, 36 anni, che insomma è di origine marocchina, se non vado errato, sì, di origine marocchina, ma in realtà è italiana ed è anche un compagno italiano, tra le altre cose, è nata in Italia. Nel suo bar, appunto in provincia di Brescia, si trova una svastica al contrario, una croce celtica e una scritta offensiva e razzista, oltre che il bar devastato, la vetrina rotta, la vetrina sfondata, bottiglie di alcolici e latte rovesciate sul bancone, i bicchieri in mille pezzi, il tendone del gazebo divelto, una scenografia inquietante, racconta Pietro Gorlani, appunto a pagina 23 del Corriere della Sera, che ricorda i tempi più bui della vernice usata per scrivere quelle infamie, quella scoperta da Madia alle 2:40 dell'altra notte. Mi è arrivato il messaggio d'allarme sul cellulare, pensavo a un furto, a un guasto tecnico, racconta lei, racconta altri episodi avvenuti nei mesi scorsi, lo racconta il dipendente egiziano del distributore a fianco, gestisce il Casablanca da un anno, è brava, i clienti sono cresciuti molto, ma mi è confessato che negli ultimi mesi dei ragazzi le hanno detto marocchina di... rovesciando il caffè sul tavolo. È successo 3 volte, l'ultima poco prima di Natale. Inizia a fare caffè alle 6:30 del mattino, soprattutto a operai e camionisti, e dice anche, quello che mi stupisce è che i vicini, quelli che sono là intorno, non abbiano visto nulla e non sappiano dire niente. Un'altra storia che arriva di razzismo, in questo caso appunto, che arriva dalla provincia di Brescia e ce la racconta il Corriere della Sera. Ci spostiamo invece a Napoli per questa inchiesta che ha a che fare con i carabinieri. 5 militari arrestati, 3 sospesi. Secondo le ipotesi dell'accusa, si erano messi al servizio della camorra in cambio di soldi e regali. Lo racconta Dario del Porto a pagina 22 della Repubblica. La camorra gli aveva messo una bomba sotto la macchina e i suoi colleghi se la ridevano, perché quell'investigatore onesto, il maresciallo dei carabinieri Giuseppe Membrino, lavorava in una caserma Colabrodo, come rivelerà anni dopo un collaboratore di giustizia. La tenenza di Sant'Antimo, periferia settentrionale di Napoli, regno del clan capeggiato dal boss Pasquale Puca, detto o minorenne. In quegli uffici, si legge ora nelle carte di un'inchiesta del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, un gruppo di carabinieri si prestava a garantire copertura a personaggi affiliati o comunque vicini alla cosca in cambio di favori. Soldi, capretti oppure prosciutti, bottiglie di champagne, addirittura appartamenti acquistati a prezzi inferiori rispetto al mercato. 5 sottufficiali sono adesso agli arresti domiciliari per corruzione, mentre il GIP ha escluso sia l'aggravante mafiosa sia l'ipotesi del concorso in associazione camorristica. Altri 3 carabinieri, fra i quali un ufficiale, sono stati sospesi per un anno. E qua c'è la storia, il racconto appunto di questi carabinieri che insieme ad un altro uomo, un appunto un uno legato a questo clan di Camorra, che non a caso si chiama Puca di cognome, vicini alcuni soggetti vicini al clan insieme ai carabinieri che ridacchiavano sulla vicenda della bomba messa sotto l'auto di questo carabiniere che poi fu trasferito. Oh, e a proposito di criminalità organizzata, beh, curiosamente lo troviamo solamente, l'ho pescato solamente di taglio basso sul giornale, a pagina 11, quasi un po' nascosta, è un episodio che ci pare francamente abbastanza grave. 5 condannati per 'ndrangheta tornano in libertà perché il giudice non ha depositato le motivazioni della sentenza. È passato quasi un anno e mezzo dalla sentenza di primo grado del processo relativo all'inchiesta antimafia Costa Pulita, ma le motivazioni non sono ancora state depositate, ragion per cui 5 condannati con il rito abbreviato sono stati scarcerati per decorrenza del termine massimo di fase in assenza della celebrazione e quindi pronuncia del giudizio di appello. Si tratta di un processo nato dall'operazione contro i clan di Vibo Valentia, condotta nell'aprile del 2016 dalla DDA di Catanzaro e che ha visto coinvolti, oltre all'ex presidente della provincia di Vibo, la ricorderete l'inchiesta perché ne parlammo, e all'ex sindaco di Briatico, anche alcuni esponenti della criminalità organizzata calabrese, di cui il GUP Pietro Carè, lo stesso che non ha depositato le motivazioni, ha disposto l'immediata scarcerazione, accogliendo l'istanza dei difensori, dunque, per questo errore procedurale, per non aver depositato le motivazioni della sentenza. Torniamo a Napoli o nel napoletano e ci spostiamo sul Libero a pagina 14, dove abbiamo discusso all'infinito, lo ricorderete, di quella vicenda della scuola romana che aveva suddiviso i plessi nelle indicazioni generali sulla base del censo, i plessi scolastici, ossia in questa scuola, in questo plesso scolastico c'è gente della buona borghesia, di ceto medio alto, in quest'altro censo di ceto, in quest'altro plesso di ceto alto, in quest'altro di ceto basso, eccetera eccetera. Ebbene, a Napoli invece esplode il caso di un preside che fa un post su Facebook perché è quello che gli chiedono i genitori, cioè i genitori gli chiedono di suddividere le classi sulla base del censo. Un post comparso un paio di giorni fa sulla pagina dell'Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi, sempre di Sant'Antimo, siamo nella stessa zona, nella sezione utilizzata per le comunicazioni agli iscritti e alle famiglie, diceva: prima qualche genitore, poi addirittura qualche docente viene ad esprimere la necessità di formare classi suddivise sulla base del censo. Da quando sono arrivato nella nuova scuola, dice il preside, ho spesso la sensazione di essere in Sudafrica, a dare la sensazione quasi dell'apartheid, della suddivisione appunto in base in questo caso appunto al censo. Insomma, qua interviene il sottosegretario all'istruzione Peppe De Cristofaro, che dice che vuole denunciare situazioni di evidente discriminazione nelle scuole pubbliche, ma la conclusione del pezzo di Brunella Bolloli a pagina 14 di Libero è, consentiteci, quasi delizioso, perché nelle risposte al preside arrivate dai genitori sulla pagina Facebook, quelli che chiedono di mettere i figli nella classe un po' più, no, un po' più su, quella per il censo più alto, si segnalano: abbiamo paura che i nostri figli prendino cattive abitudini. Un padre che scrive: vogliamo che i nostri figli seguino le nostre orme. E quindi quelli che vogliono i figli nella classe appunto col censo più alto, non sanno nemmeno usare il congiuntivo. Pausa. Mattino. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo? Sì! Aspetti! Sì, ci è venuto in mente un po' a tutti, almeno 3-4 ascoltatori mi hanno scritto su questa storia del congiuntivo. Batti lei? Allora... Veniamo alla parte centrale della nostra rassegna stampa e consentitemi di iniziare non dalla politica in questo caso, ma da un po' di informazioni che riguardano il coronavirus, del quale avete sentito anche gli aggiornamenti nel GR24 di stamattina, la notizia che c'è il primo contagiato accertato in Germania. Vi voglio segnalare qua due pezzi in particolare. Allora, il primo è dal quotidiano La Repubblica, pagina 13, lo firma Elena Dusi e ha a che fare con tutte le incertezze che si hanno in merito a questo virus, ossia da dove effettivamente provenga, come sia nato, quale sia l'origine, come e quanto si stia diffondendo. Dal paziente zero ai tempi del contagio, i misteri di un'epidemia anomala, la definisce Elena Dusi nel titolo. E racconta: sono passati 58 giorni dal primo colpo di tosse, ancora parecchi tasselli faticano a trovare posto nel puzzle dell'epidemia di Wuhan. All'indagine manca un colpevole. Quale animale ha materialmente contagiato l'uomo? È improbabile che sia stato un serpente, come indicato dai ricercatori cinesi. Non è chiaro poi a quale velocità stia viaggiando il virus. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni persona malata ne infetta in media altre due, ma altre stime riportano una capacità di contagio doppia, se non addirittura tripla. Oggi emerge che il primo paziente finito in ospedale non aveva mai messo piede fra quei banchi nei quali si vendevano animali selvatici vivi, dai rettili agli zibetti e ai pipistrelli. Forse qualcuno si era ammalato prima, ma senza sintomi sufficienti a farlo finire tra le maglie della sorveglianza sanitaria. Questo vorrebbe dire che il virus è già in circolazione quando il 1° dicembre del 2019 il primo paziente a noi noto della nuova epidemia tossisce a Wuhan. Ma è solo il 31 dicembre che le autorità si preoccupano davvero e lanciano l'allarme. Dunque, queste sono le incertezze. Innanzitutto, da dove è nato il contagio, anche se i ricercatori italiani dicono che probabilmente sono i pipistrelli. Quanto corre il contagio? Perché modelli matematici, alcuni sono più ottimisti, tra ogni malato infetta in media tra 1,4 e 2,5 persone, altri più pessimistici ancora, anche sul numero di contagiati già presenti nel mondo. E poi c'è l'incognita delle mutazioni. Quanto rapidamente il virus si diffonderà dipende dalle mutazioni del suo genoma. Dal campus biomedico di Roma, Silvia Angeletti dice: finora non è più letale della nostra influenza di 2 anni fa, ma più individui colpisce, più è probabile che muti e bisognerà vedere che cosa succede. Fatto sta che ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come sapete, ha rilanciato l'allarme, ha detto è un allarme globale, il livello, cioè c'è un livello di pericolo più elevato, e a questa notizia i mercati hanno reagito, e hanno reagito male. È l'apertura del Sole 24 Ore, è pagina 7 con un pezzo redatto da Sissi Bellomo e Andrea Franceschi, che ci aggiorna su tutto questo e ci dice che l'allarme sul coronavirus si è fatto sentire pesantemente alla riapertura dei mercati, dalle azioni ai bond, dalle materie prime alle valute. Il copione andato in scena ieri è stato quello classico della fuga dal rischio. Scontando un rallentamento della macchina manifatturiera cinese per effetto della diffusione del virus, gli investitori hanno venduto tutte le maggiori materie prime industriali, commodities industriali, dal petrolio che ha affondato sotto i $60 al barile, a rame ai minimi da 2 mesi, passando per il ferro, ingrediente dell'acciaio che è scivolato di quasi il 7%. Le borse sono cadute, sono stati invece classicamente privilegiati beni rifugio, a cominciare dall'oro che ha guadagnato oltre l'1%, tornando a sfiorare i $1.590 l'oncia. Si sono apprezzate anche valute come lo yen e il franco svizzero, mentre il rendimento dei titoli di Stato decennali americani è crollato di oltre 7 punti base, attestandosi intorno all'1,61% sui minimi da ottobre. Ci racconta anche il Sole 24 Ore del premier Li in visita a Wuhan per rassicurare la popolazione, ed è ottimo, ci pare, la colonnina che trovate sul Sole 24 Ore, ottima, a firma di Francesca Cerati, con tutte le risposte: perché gli ultimi virus sono nati in Cina, quanto il coronavirus è simile alla SARS, come si cura l'infezione, come si previene, si può identificare rapidamente chi ha contratto l'infezione, dove si possono avere informazioni certe. E qua ve lo diciamo anche noi, è il 1500 1500 del Ministero della Salute, che fornisce gratuitamente informazioni in italiano, inglese e cinese 24 ore su 24. Le questioni politiche ci siamo finalmente. E questioni politiche che trovano, come potrete immaginare, un enorme spazio sui quotidiani. Come vi abbiamo detto, per esempio La Stampa presenta addirittura 4 interviste a Cancelleri dei 5 Stelle, c'è la Meloni che insomma a questo punto si fa sentire, inizia a dire che forse ci vuole una gestione del centrodestra un po' più collegiale. Matteo Renzi che assicura lunga vita alla legislatura, e però c'è qualche altro spunto interessante che troviamo a partire, direi, dall'analisi che viene riportata da tutti i giornali, ma in questo caso la prendiamo da La Repubblica, che è forse quella più interessante dal punto di vista proprio della grafica che ci mette sopra e più chiara. Siamo a pagina 10 di Emanuele Lauria, il pezzo di Emanuele Lauria, ed è l'analisi dell'Istituto Cattaneo. L'Istituto Cattaneo che ci racconta che, un po' come dicevamo anche ieri, a sensazione, e però poi in questo caso è confortata ai dati, la vittoria del Partito Democratico, la vittoria di Bonaccini soprattutto, è dovuta essenzialmente al salto a sinistra degli ex grillini. 4 su 10 sono passati appunto dal Movimento 5 Stelle al Partito Democratico, o quantomeno al votare Bonaccini. Qual è il punto, raccontano in questa inchiesta dall'Istituto Cattaneo, in una ricerca firmata da Marta Regalia, Marco Valbruzzi e Salvatore Vassallo, ci racconta ovviamente questo, ossia uno spostamento da una serie di città, Ferrara, dove metà degli elettori pentastellati ha scelto la candidatura del governatore del PD, un dato che sale al 62% a Parma e al 71,5% a Forlì. E però segnala anche l'Istituto Cattaneo ancora, attenzione al centrosinistra, dice attenti, perché in realtà qua il centrosinistra continua a vincere nelle città, ma perde invece nei piccoli centri. C'è un'altra analisi, quella del CISE, della LUIS, della quale poi parleremo alle 8:20 con Maria Latella, che ci dice invece che un po' la narrazione che è stata fatta fino adesso di una Lega che vince tra gli operai, di un Partito Democratico che perde tra gli operai, beh, potrebbe essere per l'Emilia Romagna, almeno per l'Emilia Romagna, sbagliata. In realtà il risultato sarebbe in questo caso opposto. Ne parleremo poi alle 8:20. Altri elementi di politica, a partire da questa intervista a Nicola Morra, il presidente della Commissione Antimafia calabrese, che dice: io non ho votato 5 Stelle. Ci fermiamo, il traffico. "24 Mattino". Alternativa alla destra, cosa vuol dire? Ma cosa farà questo Conte? Deve dire cosa fa, non che è alternativa alla destra. Nel bel mezzo di una crisi economica globale, fra dazi americani e crisi dell'auto tedesca, l'Italia è ferma ancora agli anni 80, al binomio Berlusconi-Prodi o Berlusconi-Renzi, anni 90-2000. Siamo ancora alla politica del io contro te, tu contro di me, Salvini contro tutti, la sinistra contro Salvini. Non c'è mai una politica di contenuti, mai. E ci arriviamo adesso ai contenuti, già ne abbiamo parlato alle 6:45, perché condivido un po' questo ragionamento dell'ascoltatore, posto che sui quotidiani trovate un po' dappertutto, come naturale, quello invece che ci diceva il primo ascoltatore, il tema di Giuseppe Conte che vuole riprendersi la scena, vuole creare questo nuovo fronte. Ne trovate tante analisi anche su questo. E però i punti concreti, prima di arrivare ai punti concreti, il Sole 24 Ore ci dedica una pagina intera esattamente a questo, a quello che resta in sospeso. E però, una delle interviste più gustose di oggi è quella di Tommaso Labate a Nicola Morra, che non ha mai fatto mistero di non aver gradito la candidatura di quello che è stato il candidato del Movimento 5 Stelle in Calabria, Aiello. Vi ricorderete, l'abbiamo sentito con Maria Latella la settimana scorsa. E l'intervista inizia così, inizia con le parole di Morra. Me la deve proprio fare questa domanda. Beh, presidente Nicola Morra, lei era contrario alla presentazione della vostra lista in Calabria e poi ha espresso molte critiche, quindi le chiedo se ha votato per il 5 Stelle e per il candidato Aiello. No, non l'ho fatto. Sono il presidente della Commissione parlamentare antimafia e non potevo votare una lista con anche una semplice ambiguità. E per questo mi è stato impedito di fatto di votarla. Posso chiederle a questo punto perché ha votato? È semplice, per nessuno. Scusi, chi avrebbe dovuto controllare a monte le singole ambiguità? Coloro che hanno assunto il ruolo di responsabili regionali per la formazione delle liste. Si chiama fuori? Non sono mai stato dentro. Tutte le volte che mi è stato chiesto di fare dei controlli li ho fatti. Mettiamola così. Stavolta nessuno mi ha chiesto di controllare. I controlli in terre come la Calabria comportano tempi lunghi. Ed è anche un duro attacco, interno questo di Nicola Morra e i suoi colleghi del Movimento 5 Stelle dopo questa sconfitta in Calabria. Sconfitta in Calabria non solo del Movimento 5 Stelle, almeno stando a quello che sostiene Antonio Polito sul Corriere della Sera. Guardate che il punto e lo spunto è interessante nel suo editoriale a pagina 30, nel suo commento a pagina 30. Perché? Perché riassumo un po' come sono andate le cose nelle elezioni in Calabria, così spostiamo anche un po' di attenzione dall'Emilia Romagna, che sicuramente è stato il voto più importante, però insomma non è stato il solo. Nella regione meridionale, nota Polito, si è affermata con grande autorità la candidata di Forza Italia, Iole Santelli, che l'ha strappata al centro-sinistra. Ma, ed ecco il punto, la coalizione che l'ha sostenuta non è stata affatto a traino leghista come in Emilia. Anzi, il partito di Salvini in Calabria, ottenendo il 12,25%, ha perso nel giro di un anno, dalle elezioni europee a ieri, la bellezza di 10 punti percentuali, con Fratelli d'Italia che lo tallona con il 10,8%. Si dirà poco male, la Calabria fa storia a sé, sì, però quest'anno si vota in Campania, anche lì il candidato alla presidenza sarà di Forza Italia, e in Puglia il candidato lo rivendica la Meloni, che ha pure il nome giusto, Raffaele Fitto, quindi la Calabria non è un nome isolato e la strategia di sfondamento a sud di Salvini potrebbe essere arginata esattamente dalla coalizione. Tutto ciò non impedirà certo a Salvini di essere il candidato premier del centrodestra alle prossime elezioni politiche, quando ci saranno, però se in mezza Italia resterà minoranza, rischia di non esserne più il dominus. Sarà costretto a mettere su una classica coalizione, fatta di trattative, scambi, garanzie, e il sogno dell'uomo solo al comando che Salvini coltiva fin da quando aveva sperato che il bipolarismo fosse stato sepolto, dovrebbe cedere il passo a una più tradizionale leadership, auspicabilmente più moderata, ma per lui a libertà condizionata. Occhio che questo è un punto importante, così come è importante il punto che evidenzia Lina Palmerini in merito a una cosa che è passata un po' sotto traccia in queste ore, ossia la decisione della data del referendum per sul taglio dei parlamentari, che come sappiamo è un referendum confermativo. Il governo ha deciso che si svolgerà il 29 marzo, a quanto pare anche con un minimo di pressione da parte del Quirinale, che voleva che si celebrasse il prima possibile. Perché? Perché il referendum ha un effetto di polizza vita perfetta sulla legislatura. Da qui al 29 marzo non c'è lo spazio per una crisi e scioglimento anticipato delle Camere. E dopo il test, con un Parlamento dimagrito a 600, deputati e senatori si terranno ben stretto il loro seggio. Ecco, il rischio è che la combinazione tra referendum e divisioni nei 5 Stelle possano provocare una paralisi di fatto nel governo. Un movimento allo sbando, dopo i pessimi risultati di domenica, è in grado di decidere? E il PD, dopo la vittoria di Bonaccini, può mostrarsi subalterno ai 5 Stelle come è stato finora, su prescrizione o revoca autostrade? Questo è il dilemma di Zingaretti, che deve fare attenzione tra la necessità di un bilanciamento di forze nel governo e la prudenza a non scuotere troppo l'albero grillino che potrebbe crollare. E questo, appunto, questa è Lina Palmerini sul Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che a pagina 3 ci fa respirare, perché dopo tutto il politichese che abbiamo sentito in queste ultime settimane, tutte le chiacchiere, anche di ieri, parliamoci chiaro, dove il Presidente del Consiglio Conte nella sua intervista a 8:30 ha quasi solo parlato di temi che hanno a che fare con sinistra, destra, la coalizione, dove si va, cosa si fa, il Sole 24 Ore ci fa respirare a pagina 3 con un'infilata di 7 punti sui quali il governo deve intervenire, punti che sono rimasti sospesi in attesa esattamente delle consultazioni in Emilia Romagna. Il titolo è: cambiano reddito e quota 100, subito il nodo prescrizione, crescita cercasi, ma è appunto la nuova agenda dell'esecutivo. Quota 100 con catalfo che accelera, ne abbiamo parlato prima, di pensioni. In manovra ci sarà una riforma con un orizzonte decennale, il reddito di cittadinanza, con tutta la parte di stimolo al lavoro che è quasi completamente mancata e adesso dovrà arrivare, con la prescrizione, con il tentativo di mediazione di Giuseppe Conte, e la riforma dell'IRPEF, la rimodulazione dell'IVA, insomma tutte cose che hanno a che fare con le nostre tasche e non solamente con quello. E poi i decreti Salvini, i tempi lunghi per le nuove norme sull'immigrazione. E in queste ore Graziano Del Rio, adesso non mi ricordo esattamente su quale giornale lo dica, su quale dove sia l'intervista, che torna a dire: ragazzi, i decreti sicurezza vanno cambiati. Ancora green, infrastrutture e semplificazioni, e infine autostrade, la questione della revoca, dell'ipotesi di revoca della concessione per autostrade, o l'ipotesi addirittura del cambio di proprietà. Siamo a pagina 3 del Sole 24 Ore e finalmente appunto si torna un po' sui temi dopo tante chiacchiere puramente politiche. Prima di chiudere, abbiamo due minuti, andiamo un po' più sul leggero, un po' più sul leggero. Siamo a pagina 18 del giornale, il quale giornale ci racconta come nel Consiglio Comunale di Milano ci sia l'opposizione che sta tentando di modificare in qualche modo il nuovo regolamento sugli animali domestici. Che cosa contiene questo regolamento sugli animali domestici varato dalla giunta milanese? Allora, racconta Marta Bravi a pagina appunto 18 del giornale: norme ridicole, obblighi kafkiani e regole folli. Ecco il bestiario che i consiglieri comunali di opposizione stanno cercando di normalizzare. Tra le prescrizioni più paradossali del regolamento per il benessere e la tutela degli animali domestici spiccano l'obbligo, sancito dall'articolo 10, di assicurare agli uccelli da affezione in cattività la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità. Chissà come si potrà verificare questa incompatibilità. Divieto di tenere animali in acquari sferoidali, pena una multa da 100 a 450 euro. Gli acquari devono avere almeno una lunghezza pari a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata, che non so come misurare. Poi cresceranno pure questi pesci, quindi insomma non si sa esattamente. E i rettili al minimo una superficie di 100 centimetri quadrati per ogni centimetro di lunghezza dell'animale. Ultima ma non ultimo, l'ipotesi di introduzione del divieto di fumo nelle aree cani per tutelare i bronchi degli animali dai danni del fumo passivo e per una questione di decoro e di igiene. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo.